Capitolo 124. La seconda fatica, l'idra di Lerna. La seconda fatica che Euristeo impose a Eracle fu di distruggere l'idra di Lerna, mostro nato da Echidna e da Tifone e che Era aveva addestrato per minacciare la vita di Eracle. Lerna sorge accanto al mare, a circa 5 miglia dalla città di Argo. A occidente la sovrasta il monte Pontino, con il suo sacro bosco di platani che digrada sino alla spiaggia. In questo bosco, chiuso da un lato dal fiume Pontino, presso il quale Danao dedicò un tempio ad Atena, e dall'altro dal fiume Amimone, vi sono statue di Demetra, Dioniso Salvatore e Prosinna, una delle nutrici di Era, e sul lido un simulacro in pietra di Afrodite offerto dalle Danaidi. Ogni anno si svolgono a Lerna riti notturni e segreti in onore di Dioniso, che in quel luogo discese al Tartaro alla ricerca di Semele. E non molto lontano si celebrano i misteri di Demetra Lernea, in un recinto che segna il punto da dove anche Ade e Persefone discesero al Tartaro. Questo fertile e sacro distretto fu un tempo terrorizzato dall'idra, che aveva la sua tana sotto un platano, presso la settuplice sorgente del fiume Amimone, e si aggirava nella palude Lernea, di cui nessuno riuscì a misurare la profondità. L'imperatore Nerone ci si provò di recente, ma invano, e che divenne la tomba di molti incauti viandanti. L'idra aveva un mostruoso corpo di cane e 8 o 9 teste serpentine, una di esse immortale, ma taluni parlano di 50, altri di 100, persino di 10.000 teste. A ogni modo l'idra era così velenosa che il suo solo respiro e persino il puzzo delle sue tracce potevano uccidere. Atena aveva ben meditato in quale modo Eracle potesse uccidere l'idra, e quando egli giunse a Lerna, sul suo cocchio guidato da Iolao, gli indicò la tana del mostro. Dietro consiglio della dea, Eracle costrinse l'idra a uscire dalla tana tempestandola di frecce infuocate, e poi la salì trattenendo il fiato. Il mostro si avvolse attorno ai suoi piedi nel tentativo di farlo inciampare. Invano Eracle si accanì con la clava. Non appena gli riusciva di spaccare una delle teste dell'idra, subito ne ricrescevano 2 o 3 altre per sostituirla. Un enorme granchio emerse allora dalla palude per aiutare l'idra e si attaccò al piede di Eracle. Schiacciando violentemente il guscio del granchio sotto il tallone, Eracle gridò per invocare il soccorso di Iolao. Iolao diede fuoco a un lembo del bosco e poi, per impedire che nuove teste germogliassero sul corpo dell'idra, ne cauterizzava la radice con rami infuocati e così fermava il flusso del sangue. Usando una spada o un aureo falcetto, Eracle tagliò allora la testa immortale, che era in parte d'oro, e la seppellì, ancora sibilante, sotto una pesante roccia ai margini della strada che conduceva a Elea. Poi squartò la carcassa e immerse la punta delle sue frecce nella bile del mostro. Da quel giorno la minima scalfittura prodotta da tali frecce fu sempre fatale. Per ricompensare il granchio dei suoi servigi, Era lo immortalò tra i segni dello zodiaco, ed Euristeo dichiarò che quella fatica non era stata compiuta a dovere, perché Iolao aveva aiutato Eracle con i suoi rami infuocati. L'idra di Lerna sollevò grande perplessità tra i mitografi classici. Secondo Pausania, l'idra era probabilmente un enorme e velenoso serpente acquatico cui Pisandro, per il primo, attribuì molte teste per renderlo più terribile e al tempo stesso aggiungere prestigio ai propri versi. Secondo l'Evemeristico Servio, l'idra era la sorgente di fiumi sotterranei che improvvisamente emergevano inondando le terre circostanti. Se uno dei suoi numerosi canali si ostruiva, l'acqua si apriva un varco altrove. Per questo Eracle si servì dapprima del fuoco per prosciugare il terreno, poi chiuse tutti i canali. Nella più antica versione di questo mito, Eracle, come aspirante al trono, lottò probabilmente contro un toro, un leone, un cinghiale e uno scorpione, e poi si tuffò nel lago per strappare l'oro al mostro acquatico che viveva nell'abisso. Giasone dovette sostenere pressappoco le stesse prove e il ruolo di soccorritrice assunto da Medea viene qui affidato ad Atena come promessa sposa di Eracle. Benché l'idra ricordi il serpente marino che Perseo uccise con un dorato falcetto a forma di quarto di luna, essa era in realtà un mostro d'acqua dolce come quelli citati dai mitografi irlandesi e celtici, i piastres o avanx, o l'altro ancora cui si accenna nell'appellativo omerico di lacedemone, e cioè cetoessa dal mostro acquatico, mostro che senza dubbio funestava i profondi gorghi dell'Eurota. Il corpo a forma di cane è una reminiscenza del mostro marino Scilla. Gli astrologi introdussero il granchio in questa leggenda per far corrispondere le 12 fatiche di Eracle ai segni dello zodiaco, ma in verità il granchio avrebbe dovuto figurare nella lotta contro il leone Nemeo, che è la costellazione seguente. Questo mito dal fondamento rituale è stato messo in rapporto con il mito delle Danaidi, che erano le antiche sacerdotesse delle acque di Lerna. Il numero di teste attribuite all'idra varia per ragioni comprensibili. Come simbolo del collegio di sacerdotesse, il mostro aveva 50 teste, come simbolo della seppia sacra, un travestimento adottato da Teti, onorata anch'essa da un collegio di 50 sacerdotesse, aveva 8 braccia serpentine che terminavano con una testa e un'altra testa posata sul tronco, e tutte assieme facevano un totale di 9 in onore della dea Luna. Il numero di 100 ci fa pensare alle centurie o bande armate che devastavano il territorio di Argo giungendo da Lerna. Che le teste poi fossero 10.000 è una tipica esagerazione di Euripide, mitografo poco coscienzioso. Sulle monete greche l'idra di solito era rappresentata con 7 teste, che indubbiamente si riferivano alle 7 sorgenti del fiume Amimone. La vittoria di Eracle sull'idra pare ricordi un evento storico, e cioè il tentativo compiuto per sopprimere i riti di fertilità che si svolgevano all'Erna. Ma nuove sacerdotesse continuarono a officiare nel sacro bosco di platani. Il platano ci fa pensare ad un'influenza cretese e così pure la seppia, finché gli Achei, o forse i Dori, non lo distrussero appiccandovi il fuoco. In origine, chiaro, Demetra formava una triade con Ecate come vegliarda, qui chiamata Prosinna, cui ci si rivolge con inni, e la vergine Persefone, ma la semele di Dioniso spodestò Persefone. Presso la riva del mare si adorava Afrodite Teti con un culto separato.